Io sto troppo tranqui, qui ogni coppia ha una serie di amanti. Anche se preghi, non ti rispondano i santi. E se non prendi un diploma, resti tra gli ignoranti. Che cazzo vuoi che sia? Un'altra periferia, fammi spazio, fammi largo, questa vita è mia. E vediamo se adesso tirano sulle mani, raga. Se vuoi leggere il mio nome, scendi giù, giù in strada. E in casa ti fai una cultura, davanti al TG, che gli unici eroi sono solo i VIP. Hai paura anche te di finire sotto un tir? O vuoi mischiare tutto e poi fare cin cin? Tu guarda il mio stampino, made in FI. Tu resta dove sei e non cambiare posizione. Qui la vita non cambia, se non hai un milione qui la vita ti cambia. Se sei un imprenditore la tua vita è in due tempi, come quella di un attore. Tutti mangiano audience come carne una iena. Mi ostengo, non faccio parte del problema. Io passo una notte insonne col sistema. Io mi lavo la bocca se parlo della scena. Mi riscuoto tutto ciò che dà dipendenza. Prendo la 600 e scappo da Fiorenza. Cose che non tornano e ci sto senza. Gioie e dolori come punto di partenza. Guardati allo specchio e guarda la differenza. Tutte le mattine con la città alle spalle, di gioie e dolori ne ho piene le palle. Firenze due facce, un buco più tre stalle. Tutte le mattine con la città alle spalle, le strade e le vie continuo ad amarle. Firenze due facce, sorrisi e linguacci. Incomincia prima di me, è la più bella che c'è. L'unico mio sfogo qui è il rap. Vediamo adesso chi c'è, chi c'è, chi c'è, chi c'è. Altro che storie di mafia e sbirri corrotti. Qui latte e biscotti, ferite e cerotti. Ci stanno i bischeri che si prendono a cazzotti. Gossip di notti in bianco, fumo che sale e io sono stanco. Impiegati al caldo insieme al branco. Fammi spazio, fammi largo, la città è cupa. Io vado in letargo, lo dico adesso che sono più pazzo. Lo dico adesso in rima, senti il suono fino a via Aretina. Io sto in campagna davanti alla città. In queste cose non mi mischio e resto con i fra. Tutte le mattine con la città alle spalle, di gioie e dolori ne ho piene le palle. Firenze due facce, un buco più tre stalle. Tutte le mattine con la città alle spalle, le strade e le vie continuo ad amarle. Firenze due facce, sorrisi e linguacce. Tutte le mattine con la città alle spalle, di gioie e dolori ne ho piene le palle. Firenze due facce, un buco più tre stalle. Tutte le mattine con la città alle spalle, le strade e le vie continuo ad amarle. Firenze due facce, sorrisi e linguacce. Firenze due facce, sorrisi e linguacce. Firenze due facce, sorrisi e linguacce.